Radio 24 Reportage. Le regioni alla disfida del clima, di Laura Bettini. Ora che abbiamo un accordo internazionale sul clima, bisognerà implementarlo. E per farlo sarà determinante quello che faranno le regioni, non solo italiane, ma europee e mondiali, che sul campo dovranno mettere in pratica le decisioni prese dai governi nazionali e dalle grandi organizzazioni internazionali. Ecco perché a Parigi, mentre le delegazioni erano al lavoro per concordare le azioni da intraprendere per contenere il riscaldamento del pianeta, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, in collaborazione con la Società Italiana per le Scienze del Clima e il Centro Basco per i Cambiamenti Climatici, hanno organizzato un incontro dedicato alle regioni, con una forte presenza italiana, anche perché il presidente di una nostra regione, la Sardegna, che presiede la Commissione Ambiente del Comitato delle Regioni Europee. Il Comitato è un organismo che rappresenta regioni e autorità locali che l'Unione Europea, in base ai trattati, deve consultare quando si propongono politiche che incidono sul piano locale e regionale. E di che cosa si è parlato nell'incontro di Parigi con le regioni? Principalmente di piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, sono 22 gli Stati membri che hanno approntato piani di adattamento. Ci sono poi i piani di macroregioni, come quello dell'area baltica, quelli di regioni singole e delle città. Ma il problema, dice sempre la stessa agenzia, è che molti, in termini di azioni concrete, sono ancora troppo indietro. E anche di questo abbiamo parlato con Francesco Pigliaru, presidente della Regione Sardegna e della Commissione Ambiente del Comitato delle Regioni Europee. In questi giorni si è capito, credo, al di là di ogni dubbio, che moltissime delle azioni che potranno aiutare a contrastare il cambiamento climatico avvengono a livello di territorio. E quindi, di nuovo, le autorità locali sono gli attori fondamentali per avere successo o insuccesso in questa partita. Quindi siamo qui per questo, la Sardegna insieme a tante regioni è qui per fare questo punto con molta chiarezza. A livello nazionale invece, non solo europeo, a livello nazionale siamo i coordinatori del tavolo interregionale per le politiche per la strategia di adattamento al cambiamento climatico. Appunto, anche questo è molto importante, perché possiamo avere le politiche nazionali, ma se non sono coordinate con quelle locali poi non cambia niente. Quindi stiamo cercando di fare il nostro meglio per dare una mano. Tra l'altro abbiamo appena sentito dall'Agenzia Europea che diceva quanti hanno il piano, quanti poi effettivamente mettono in campo qualche politica, quanti poi finanziano le politiche. Cioè, ci sono vari e tanti livelli per impegnarsi, no, in questo campo. Certamente, per questo è importante che le autorità locali, perché si può parlare di mobilità, ma se poi poniamo i sindaci non fanno le piste ciclabili non si va da nessuna parte. Lo stesso vale per gli edifici, per creare un maggiore sostenibilità ambientale nella gestione degli edifici. Sono tutte politiche che hanno una parte locale che è molto importante. Ha detto molto bene anche il ministro Galletti, loro possono dare le linee guida, gli indirizzi e anche le risorse, ma poi l'azione avviene a livello locale. Una cosa molto interessante, come presidente della Commissione Envi, lo vedo continuamente, come presidente della Commissione del Comitato delle Regioni, che vedo che le autorità locali sono in tutta Europa molto più ambiziose degli stati, dei governi nazionali, nel sposare degli obiettivi ambiziosi, appunto, di riduzione delle emissioni. Voglio andare più veloci di quanto non facciano i corrispondenti governi. Questo è molto interessante. Cosa fa la Sardegna per adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici? La Sardegna fa quello che devono fare tutti, mette per esempio i soldi, i fondi europei per cominciare a fare sperimentazione nella produzione decentrata di economia, di energia, la questione di cui oggi si parla del prosumer, quindi misurare molto più la produzione di energia con i bisogni locali, che è un punto fondamentale, che è anche una grandissima opportunità per fare molta innovazione, molta ricerca attraverso le smart grid e così via. Quindi c'è un grande lavoro che si può fare. La Sardegna è un'isola e forse ha più opportunità di altri di fare sperimentazione in questa direzione. Ci sono tante altre cose, ne voglio citare una, l'ho citata nell'intervento. Noi siamo un'isola turistica e noi dobbiamo lavorare per dare un esempio del fatto che i turisti possono venire in un'isola come la Sardegna senza necessariamente chiudersi in un albergo, ma andando in giro e vedendo tutto ciò che di bello c'è nella nostra regione, senza per questo dover essere obbligati a portarsi la propria inquinante macchina appresso e magari pagando un sacco di soldi per poterla trasportare. Ci piacerebbe, faremo un progetto presto per spingere molto sulla mobilità sostenibile con macchine elettriche in sharing che possano essere affittate. Credo che un'isola turistica abbia una grande opportunità più di altri territori e una grande convenienza più di altri territori andare in quella direzione. Quindi sono molte le cose che possiamo fare, non voglio dimenticare l'istruzione, anche nell'adattamento l'istruzione è fondamentale. Nelle scuole bisogna portare questo tema con grande velocità e intensità. Le azioni possibili per l'adattamento sono le più varie. Le raccoglie la piattaforma europea Climate Adapt, secondo la quale le azioni più diffuse sono quelle per la protezione o gestione delle risorse idriche. Però non è su questo fronte che sta lavorando il Lazio, che a Parigi è stato rappresentato da Riccardo Valentini, capogruppo PD nel Consiglio regionale, ma anche grandissimo esperto del settore, perché è docente all'Università della Tuscia e la sua attività riguarda l'ecologia, i sistemi agroforestali e le problematiche connesse con l'attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente globale. Nel Lazio in particolare noi stiamo proprio predisponendo il nuovo piano energetico regionale, che è una grande svolta perché era da più di 10 anni che questo piano non veniva fatto e abbiamo dei target importanti che vanno nella direzione giusta, passaggio per esempio dal 12% circa delle energie rinnovabili al 20% come target, così pure l'aumento dell'efficienza energetica sopra il 20% del target europeo, quindi arriveremo al 24%, quindi andiamo sopra i target europei, quindi la Regione Lazio si candida a andare quindi anche a fare ancora meglio anche di quello che viene fatto mediamente in Europa, grazie anche a un investimento che proviene dai fondi europei. Noi abbiamo destinato nel nostro POR, diciamo che sono i piani di sviluppo regionale europei, circa 200 milioni di euro, che è una cifra abbastanza consistente proprio per l'efficientamento energetico, per nuovi sistemi di energia rinnovabili, per reti diffuse, per tutto che riguarda anche la tecnologia dell'autoconsumo, della domotica, che è un altro aspetto importante. Poi ecco, nel campo della mobilità anche la Regione Lazio sta affrontando con degli investimenti per nuove piste ciclabili, quindi la possibilità di poter riutilizzare appunto mezzi a meno impatto, in particolare per la città di Roma questo è un tema particolarmente sentito dai cittadini, quindi stiamo predisponendo una serie di misure, da cui anche un finanziamento all'80% dell'acquisto di biciclette pieghevoli da mettere anche in macchina, da poter quindi utilizzare poi per girare la città. E poi l'altro tema anche su cui stiamo lavorando, e credo che sia l'unica regione in questo momento e anche tra le poche regioni al mondo che vuole introdurre la valutazione del capitale naturale con una valutazione economica che va quindi oltre il cosiddetto PIL, insomma, classico, quindi quanto vale una foresta, un parco, quanto vale diciamo un bacino idrografico. Questi valori economici oggi non sono contabilizzati nei bilanci tipicamente, insomma, economici. Noi abbiamo introdotto adesso una delibera, era introdotto un comitato che valuterà ogni anno il valore del capitale naturale del Lazio, questo per dare anche ai cittadini, alle imprese, proprio un significato concreto, che non si tratta solo di una difesa, diciamo così, in qualche modo solo ideologica, ma anche che ha un valore proprio economico che entra nella nostra economia, nella nostra società, quindi difendere il valore naturale. Quindi queste sono alcune delle azioni cardine. E anche si possono adesso, andando verso l'argomento dei finanziamenti, che si possono realizzare l'Europa, diciamo, in questo è il suo riferimento principale per poter attuare certe politiche. I fondi europei possono essere utilizzati, anzi devono essere utilizzati, anche perché per tante regioni, per quasi tutte le regioni d'Italia, sono gli unici strumenti veri poi di flessibilità finanziari che possono essere impiegati per progetti, diciamo, perché in genere i bilanci ordinari delle regioni sono molto disastrati, scarni. Anche se la Regione Lazio questo sta facendo dei grandi passi avanti nel rimettere in sesto la propria contabilità, però fondamentalmente abbiamo ancora un disavanzo, quindi gli unici veramente finanziamenti utili sono i finanziamenti europei. E per esempio un altro elemento per noi è anche un forma di vanto, la Regione Lazio è anche la regione che ha uno dei più alti tassi di innovazione, di start-up, di aziende che quindi ad alto contenuto innovativo e tecnologico nel settore green. Noi abbiamo nel 2014 circa 30.000 aziende che lavorano proprio nella green economy e che occupano circa 9.000-10.000 posti di lavoro. Ecco, noi pensiamo per esempio che proprio con questi fondi europei che sono dedicati all'innovazione e alle start-up possiamo aumentare anche al 20% in più questi numeri, quindi creare molta più occupazione di quella che c'è attualmente proprio nel settore green. L'energia non è un problema per la Puglia, che ne produce tanta, ma in modo strabico, dice il governatore Michele Emiliano, che sogna e lavora per decarbonizzare l'acciaieria Ilva e ridurre le emissioni pericolose per la salute e il clima. Abbiamo un problema, produciamo tantissima energia, più del doppio di quella che consumiamo, e la produciamo in una maniera anche questa strabica, cioè siamo i principali produttori di energia da fonti alternative in Italia e siamo anche quelli che producono tutto il resto dell'energia da carbone, con la centrale elettrica a carbone più grande d'Europa. E in più produciamo acciaio strategico per l'Italia, perché è l'unico grande impianto rimasto per il paese, che però anch'esso funziona a carbone. E siamo anche la regione dove deve arrivare il TAP, il Trans Adriatic Pipeline, che sta suscitando qualche polemica tra la regione Puglia e il governo del paese. E noi abbiamo fatto una proposta semplicissima: facciamo arrivare TAP un po' più a nord, a Brindisi, al porto, a Capo Bianco, dove c'è già il condotto di adduzione alla dorsale Snam Adriatica, già costruito dalla British Gas per il rigassificatore, che poi non si è mai realizzato. C'è, ma non è in uso? Non è in uso, ma è nuovo di zecca, quindi può essere utilizzato. E soprattutto chiediamo all'Enel, nel prossimo revamping della centrale, tra 7-8 anni, giusto il tempo di costruire tutta l'operazione, di alimentare, come fu promesso tanti anni fa, la centrale a gas piuttosto che a carbone. E la stessa operazione possiamo fare sull'Ilva, perché la diramazione verso Taranto è già in costruzione del gasdotto, e con 2 miliardi e mezzo di metri cubi di gas possiamo far andare anche l'Ilva, con un sistema produttivo completamente nuovo, perché quello attuale, progettato negli anni 40, è stato costruito negli anni 50 e insomma si tratta di un impianto molto obsoleto a carbone. Se questa operazione riesce, noi rientriamo negli obiettivi di questa conferenza di Parigi. L'Italia presenta un grande colpo di riduzione delle polveri sottili, del CO2, e soprattutto utilizza questo grande accordo internazionale strategico che mira a renderci meno schiavi del gas russo, ma lo adopera anche per una cosa utile alle comunità che devono subire l'opera, che in questo modo evidentemente la gestiranno in maniera... Gli anni hanno subito ben altro, insomma, che quest'opera, che ne abbiamo le conseguenze ben chiare, insomma. Beh, i pugliesi hanno subito ciò che non avrebbero mai dovuto subire, e lo hanno fatto con grande senso di patria, però la pazienza adesso è finita, e soprattutto ci sono anche gli sfregi finali, perché il TAP qualcuno lo vuol far arrivare 50 km, 100 km più a sud, sulla più bella spiaggia del Pugliese, dell'Adriatico, senza che ce ne sia alcuna necessità. Mettendo insieme queste cose e lavorando tra Regione Puglia e Governo, io ieri ho scritto la proposta formalizzata a Matteo Renzi, gli ho chiesto un incontro per poter trovare un punto di equilibrio. Comunque si giudichi l'accordo raggiunto a Parigi, il messaggio che ha trasmesso una così vasta adesione di popoli è chiaro. L'esperienza di questi ultimi decenni ci ha insegnato che non adoperarsi contro i cambiamenti climatici e per l'adattamento costa in vite umane e denaro assai di più che agire ora. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.